Torniamo a parlare di flessibilità e orario di lavoro, ma da un punto di vista particolare, cioè quello di un riformista della Prima Repubblica, un socialista piuttosto atipico che dialogava con i sindacati, Riccardo Lombardi. Carlo Patrignani gli ha dedicato un libro fresco di stampa pubblicato nelle edizioni L'Asino d'Oro dal curioso titolo Lombardi e il fenicottero. L'intervista è di Roberto Pippan. Patrignani, quanto diceva Lombardi su flessibilità e mobilità sarebbe valido ancora oggi, però cominciamo dal titolo del libro. Perché il Lombardi e il fenicottero? Il fenicottero era sua donna, la donna della sua vita, e Naviatto, che all'epoca della Resistenza faceva la staffetta partigiana, ricopriva un ruolo molto molto delicato nell'organizzazione antifascista, portando al di qua e al di là delle Alpi materiale di stampa clandestina e soprattutto tutto provvedeva all'organizzazione della Resistenza. Lombardi è un personaggio della Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica furono realizzate grandi riforme, da quella dell'energia elettrica allo Statuto dei Lavoratori. All'indomani della caduta del fascismo si crearono i presupposti, soprattutto Lombardi in questo fu un grosso ispiratore, per cominciare a costruire e progettare un nuovo modello di società italiana. Si passò dal modello agricolo a un modello industriale. Devo dire che in quel lasso di tempo dei primi anni 50, con chi dialogava in maniera molto continuativa e diretta, l'ingegnere socialista, era da una parte l'asse che reggeva la CGIL di Vittorio e Fernando Santi, e poi il duo che sorreggeva la mitica FLM dei metalmeccanici, e cioè Bruno Trentin e Pier Carniti, senza nulla togliere ovviamente alla Wilm di Giorgio Benvenuto, ma il feeling vero l'ingegnere socialista lo ebbe con Bruno Trentin e Pier Carniti, che furono i due che più seguirono quella grande rivoluzione che voleva fare la riduzione dell'orario di lavoro, perché non è detto che la gente debba lavorare una settimana intera, diciamo 8 ore, ma può benissimo lavorare meno e lavorare tutti. Questo perché lui vedeva nell'operaio non solo il fruitore di un salario, ma anche la persona che avrebbe dovuto saper apprezzare Dante e conoscere Picasso. Cosa direbbe oggi Lombardi a proposito della flessibilità e della mobilità, temi sui quali si discute? Flessibilità e mobilità del lavoro significa che una persona non è detto che debba fare per tutta la vita lo stesso mestiere. La formazione a cui pensava Lombardi era proprio questa: accompagnare una persona nel corso della sua attività lavorativa a poter cambiare lavoro senza perdere salario. Nel 79, in un'intervista, qualcuno gli chiese: ha mai pensato di avere più soldi? Lombardi rispose: non avrei saputo che cosa farne, non ho neppure una casa. Mi basta poter comprare dei libri, parole davvero che colpiscono oggi, no? Direi proprio di sì. Che fanno riflettere, no? Che fanno riflettere e soprattutto fanno il baratro tra l'integrità e l'onestà di questo personaggio della Repubblica Italiana e quella classe dirigente di allora, e con quella di oggi non c'è neanche da un minimo di accostamento. Per Riccardo quello che contava era soprattutto l'essere umano nelle sue dimensioni, diciamo, di fruitore di bisogni, una casa, un salario, ma soprattutto doveva essere gli garantito la possibilità della sua realizzazione non solo sociale ma soprattutto umana.